Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bellinzona, 18 novembre 2009. Cittadino spagnolo truffato da finto direttore di banca. È tutta la vita che leggo i giornali e non ci ho mai creduto. Non sono un ingenuo, lo so che le cose succedono, ma ho sempre pensato che i giornali si divertissero a fantasticare, a imbrogliare le carte. Poi, quando ho conosciuto Corazza, nei giornali ci siamo finiti pure noi, anche se la storia non è andata proprio così come dicono. Io faccio il barista in una via poco fuori dal centro storico. Non arriva mai troppa gente, impiegati, ragazzini, gente di passaggio. Sono contento della mia vita. Mi piacciono le cose che si ripetono, i platani che perdono le foglie, i discorsi del sindaco a Capodanno, i tipi strambi che passano il tempo al bar. Il giorno che è arrivato Corazza, per esempio, c'era il vecchio Alfio che aspettava una telefonata. È una vita che aspetta quello. Si presenta qui il mattino vestito di tutto punto con la cravatta e la valigetta per i documenti, come per andare al lavoro. Poi si siede e mi fa: «Attendo una chiamata, Renzo, mi fai cenno se arriva?» Naturalmente la chiamata non arriva mai, del resto non c'è più nemmeno il vecchio telefono a muro, ormai hanno tutti il cellulare. Corazza ha cominciato proprio così, parlando forte nel cellulare. Allora ho capito che faceva sul serio, discuteva di garanzie, di percentuali. Poi ha preso una birra e mi guardava con la faccia da cane bastonato. «Qualche problema?» ho chiesto io, tanto per dire qualcosa. «Soldi», mi ha detto. «I soldi sono sempre un problema. Chi ne ha, chi non ne ha, chi li vuole cambiare?» «Cambiare?» Corazza ha buttato giù in un sorso metà della birra. Ci vorrebbe uno di cui fidarsi, una persona del posto. Mi pareva che parlasse fra sé, così ho preferito non insistere. Tante volte la gente dice troppo e poi si pente. Allora ti guardano male, come se volessero rimangiarsi le parole, e alla fine cambiano bar. Perché noi siamo qualcosa a metà fra la luce e l'ombra, e così dobbiamo rimanere. Ascoltiamo, non diamo troppi consigli. Ne passano tanti che avrebbero bisogno di cambiare strada. Qualcuno ce la fa, altri scompaiono. Scompaiono. A dire il vero, tutti rimangono qui. Questa non è una metropoli. Sappiamo bene di chi è figlio uno e dove è andato a finire l'altro. Se uno si chiama fuori, noi lo accettiamo, non perché siamo compassionevoli, ma perché l'abitudine ha la meglio. Il vecchio Alfio non lo vediamo nemmeno più. È parte del paesaggio. Ogni mattina Alfio beve un caffè corretto cognac, poi mi fa cenno di metterlo sul conto, prende la sua valigetta ed esce guardando l'orologio con l'aria di chi ha un impegno. Corazza mi ha chiesto chi fosse. Io gli ho spiegato che era inoffensivo. Ha una pensione di invalidità, ma gli piace fingere di avere un lavoro. E voi fingete di crederci? Ho alzato le spalle. Non costa niente credere alle persone. Corazza non mi ha chiesto subito di aiutarlo, ma dopo un po' l'idea è arrivata con naturalezza. Abbiamo chiacchierato a lungo, lui era sempre al bar. Quando ho avuto l'idea, ne è rimasto quasi sorpreso. Andrea Fazzioli, in libreria con Come rapinare una banca svizzera. Guanda, 341 pagine, 17 euro.